Terzo Anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alba Rohrwacher legge Il Mago di Oz di Frank Baum. Traduzione di Sara Sollors. Mentre si guardava intorno, piacevolmente sorpresa da quel paesaggio bello e diverso da quello che conosceva, Dorothy vide avvicinarsi della gente davvero strana. Non erano né grandi né piccoli, né adulti né bambini. Sembravano essere alti quanto lei. Dorothy non era affatto piccola per la sua età, anche se avevano l'aria di essere più vecchi. Erano tre uomini e una donna, tutti vestiti in modo bizzarro. Portavano dei cappelli a punta, alti un piede, con l'ala tonda, ornata di campanellini che tintinnavano dolcemente ad ogni movimento. I cappelli degli uomini erano blu, quello della donnina bianco, com'era bianco il suo abito a balze, punteggiato di stelline che luccicavano come diamanti al sole. Gli uomini erano vestiti di blu, la stessa tonalità dei cappelli, e portavano degli stivali ben lucidati, con un risvolto blu scuro. Siccome due di loro avevano la barba, a Dorothy pareva che avessero l'età dello zio Henry. Ma la donnina era senz'altro più vecchia. Aveva la faccia rugosa e i capelli bianchi e camminava a fatica. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. Avvicinandosi alla casa sulla cui soglia stava Dorothy, si fermarono bisbigliando tra loro, quasi avessero paura di proseguire, di avvicinarsi di più. Ma la vecchietta si fece comunque avanti e con un inchino disse con voce soave: «Sei la benvenuta nella terra degli ignami, nobilissima maga. Ti siamo infinitamente grati per aver ucciso la perfida strega dell'Est e per aver liberato il nostro popolo dalla schiavitù». Dorothy rimase senza parole. Come mai questa donnina la chiamava maga e diceva che aveva ucciso la perfida strega dell'Est? Lei era una ragazzina innocente e innocua, trasportata da un ciclone a molte miglia da casa, e non aveva mai ucciso nessuno in vita sua. Ma evidentemente la donnina si aspettava che le rispondesse, quindi Dorothy, esitando, disse: «Siete molto gentile, ma deve esserci un errore. Io non ho ucciso nessuno». «La tua casa sì», ribatté la vecchietta ridendo, «ed è la stessa cosa. Guarda», continuò indicando l'angolo della casa, «lì, sotto quel pezzo di legno, sbucano fuori due piedi». Dorothy guardò e gridò per lo spavento. Effettivamente, proprio là, sotto l'angolo della trave su cui poggiava la casa, sbucavano due piedi calzati di un paio di scarpe d'argento a punta. «Santo cielo!» esclamò Dorothy disperandosi. «E adesso cosa facciamo?» «Niente», disse la donnina con calma. «Ma chi era?» chiese Dorothy. «Come ti ho già detto, era la perfida strega dell'Est», rispose la donnina. «Ha tenuto gli ignami come schiavi per molti anni, costringendoli a sgobbare per lei giorno e notte. Adesso sono tutti liberi e ti sono molto grati per il favore». «Chi sono gli ignami?» domandò Dorothy. «Sono gli abitanti di questa terra dell'Est, dove regnava quella perfida strega». «E voi siete una gnammi?» chiese Dorothy. «No, ma sono loro amica, anche se vivo nella terra del nord. Quando hanno visto che la strega dell'Est era morta, mi hanno subito mandato un messaggero e sono venuta immediatamente. Io sono la strega del nord». «Mamma mia!» esclamò Dorothy. «Siete davvero una strega?» «Certo», rispose la donnina. «Ma sono una strega buona e tutti mi vogliono bene. Non sono così potente come la perfida strega che regnava qui, se no li avrei liberati io gli ignami. Io però pensavo che tutte le streghe fossero perfide, disse la ragazzina, mezza terrorizzata dall'idea di essere faccia a faccia con una strega vera. Oh no, non è assolutamente così. C'erano solo 4 streghe in tutto il paese di Oz, e 2, quelle che vivono al nord e al sud, sono streghe buone. Lo so per certo perché io sono una di loro, e non mi posso sbagliare. Quelle che abitavano all'est e all'ovest erano effettivamente delle streghe cattive, ma adesso tu ne hai uccisa una, e quindi rimane un'unica strega cattiva in tutto il paese di Oz, quella che vive all'ovest. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. And it really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. See the people standing there who disagree, never win. I wonder why they don't get in my door. I'm painting the room in a colorful way. And when my mind is wandering, there I will go. Ma, disse Dorothy dopo averci pensato un attimo, zia Emma mi aveva detto che tutte le streghe erano morte anni e anni fa. Chi è zia Emma? Domandò la vecchietta. È la mia zia, che vive in Kansas, il posto da cui vengo. La strega del nord rifletté per un po', a testa bassa e guardando per terra. Poi alzò lo sguardo e disse: non so dove sia il Kansas perché non ne ho mai sentito parlare prima d'ora. Dimmi, è un paese civile? Oh sì, rispose Dorothy. Questo spiega tutto. Credo che non ci siano più streghe nei paesi civili, e nemmeno maghi, maghe o prestigiatori. Ma, vedi, il paese di Oz non è mai stato civilizzato perché siamo isolati dal resto del mondo. Per questo ci sono ancora streghe e maghi tra noi. Chi sono i maghi? Chiese Dorothy. Lo stesso Oz è un grande mago, rispose la strega abbassando improvvisamente la voce. È più potente di tutti noi messi insieme. Vive nella città smeralda. Dorothy era lì lì per fare un'altra domanda, ma gli gnammi, che erano stati fermi in silenzio, all'improvviso cominciarono a gridare, indicando l'angolo della casa dove giaceva la perfida strega. «Cosa c'è?» chiese la vecchietta. Guardò e si mise a ridere. I piedi della strega morta erano scomparsi e non ne era rimasto nulla tranne le scarpe d'argento. «Era così vecchia», spiegò la strega del nord, «che si è seccata rapidamente al sole. Questa è la sua fine. Ma le scarpe d'argento sono tue. Te le potrai mettere». Si chinò, prese le scarpe e, dopo averle spolverate, le diede a Dorothy. «La strega dell'est era fiera di queste scarpe d'argento», disse uno degli gnammi, «e certamente nascondono qualche incantesimo, ma cosa sia, non lo abbiamo mai saputo». Dorothy portò le scarpe in casa e le mise sul tavolo. Poi uscì di nuovo e, avvicinandosi agli gnammi, disse: «Non vedo l'ora di tornare dai miei zii, perché sono sicura che saranno preoccupati per me. Potresti aiutarmi a trovare la strada per tornare a casa?» Gli gnammi e la strega si scambiarono un'occhiata, guardarono Dorothy e poi fecero cenno di no con la testa. «A est, non lontano da qui», disse uno, «c'è un grande deserto e nessuno ce l'ha mai fatta ad attraversarlo». «È così anche al sud», disse l'altro, «perché io ci sono stato e l'ho visto, il sud è il paese dei quadrumpoli». «Mi hanno detto», disse il terzo, «che è così anche all'ovest». E in quel paese dove vivono i lessocchi regna la perfida strega dell'ovest, la quale ti farebbe sua schiava se passassi di là. Il nord è la mia casa, disse la vecchietta, e ai suoi bordi c'è lo stesso grande deserto che circonda questa terra di Oz. Temo, mia cara, che dovrai vivere con noi. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Appresa questa notizia, Dorothy iniziò a piangere, perché si sentiva sola tra tutte queste persone strane. Le sue lacrime addoloravano l'animo gentile degli ignami, eppure loro tirarono fuori i fazzoletti e si misero a piangere. Quanto alla vecchietta, si tolse il cappello e se ne mise la punta in equilibrio sul naso, contando 1, 2, 3, con voce solenne. D'un tratto il cappello si trasformò in una lavagnetta su cui c'era scritto in grosse lettere di gesso bianco: «Fa che Dorothy vada nella città smeralda». La vecchietta si tolse la lavagnetta dal naso e, letto quel che c'era scritto, chiese: «Ti chiami Dorothy, cara?» «Sì», rispose la ragazzina, alzando gli occhi e asciugandosi le lacrime. «Allora devi andare alla città smeralda. Forse Oz ti aiuterà». «Dov'è questa città?» chiese Dorothy. «È esattamente al centro di questo paese, e su di essa regna Oz, il grande mago di cui ti ho parlato». «È un bravo uomo?» domandò la ragazzina, ansiosa. «È un bravo mago. Se è un uomo o no, non te lo so dire, perché non l'ho mai visto». «Come arrivo lì?» chiese Dorothy. «Devi camminare. È un viaggio lungo attraverso un paese, a volte piacevole, a volte buio e terribile. Comunque userò tutte le magie che conosco per tenerti lontana dai pericoli». «Verrai con me?» supplicò la ragazzina, la quale aveva iniziato a considerare la vecchietta la sua unica amica. «No, non posso farlo», rispose, «ma ti darò un mio bacio, e nessuno oserà fare del male a una persona baciata dalla strega del nord». Si avvicinò a Dorothy e la baciò dolcemente sulla fronte. A Dorothy rimase, come avrebbe scoperto poco dopo, un segno tondo e luccicante laddove le labbra della strega l'avevano sfiorata. «La strada per la città smeralda è fatta di mattoni gialli», disse la strega, «quindi non puoi non vederla. Quando arrivi da Oz, non avere paura di lui, ma raccontagli la tua storia e chiedigli di aiutarti. Addio, mia cara». I tre gnammi fecero un inchino profondo e le augurarono buon viaggio, dopodiché scomparvero tra gli alberi. La strega fece un cenno amichevole a Dorothy, piroettò per 3 volte sul tacco sinistro e scomparve, per la sorpresa di Toto, che le abbaiò dietro quando se ne fu andata, perché aveva avuto paura persino di ringhiare in sua presenza. Ma Dorothy, sapendo che era una strega, si aspettava che scomparisse proprio in quel modo, e non ne fu affatto sorpresa. Smile, she knows that I Appena fu sola, Dorothy sentì d'avere fame. Allora aprì la credenza, si tagliò un pezzo di pane e ci spalmò sopra del burro. Ne diede un po' a Toto e, prendendo un secchio dallo scaffale, lo portò giù al ruscello e lo riempì di acqua trasparente e fresca. Toto corse verso gli alberi e si mise ad abbaiare agli uccelli. Dorothy andò a prenderlo e vide sui rami dei frutti succulenti. Ne colse un paio, pensando che fossero quel che ci voleva per completare la sua colazione. Poi tornò a casa, e dopo aver bevuto quell'acqua fresca e trasparente ed averla data da bere anche a Toto, iniziò a prepararsi per il viaggio verso la città smeralda. Dorothy aveva un unico vestito, oltre a quello che indossava, ed era pulito e appeso ad un gancio accanto al letto. Era di cotonina, a quadretti bianchi e blu. E anche se il blu era un po' sbiadito per i molti lavaggi, era ancora un bell'abito. La ragazzina si lavò con cura, indossò il vestito pulito e si legò il cappellino rosa sotto il mento. Mise in un cestino del pane preso dalla credenza e lo coprì con un fazzoletto bianco. Guardandosi i piedi si accorse che le sue scarpe erano vecchie e consumate. «Non vanno certo bene per un lungo viaggio, Toto», disse. E Toto la fissò con i suoi occhietti neri scodinzolando per dimostrarle che capiva benissimo quel che diceva. Allora Dorothy si ricordò delle scarpe d'argento della strega dell'Est, che erano sul tavolo. «Chissà se mi staranno», disse a Toto. «Sarebbero adatte per un lungo viaggio, perché non si consumano mai». Si tolse le sue vecchie scarpe di pelle e provò quelle d'argento, che le stavano come fatte su misura per lei. Infine prese sotto braccio il cestino. «Andiamo, Toto», disse. «Andiamo alla città smeralda per chiedere al grande Oz come ritornare in Kansas». Chiuse la porta a chiave e ripose con cura la chiave nel taschino del vestito. E così, con Toto che trotterellava serio dietro di lei, iniziò il suo viaggio. C'erano un paio di strade lì vicino, ma non ci mise molto a trovare quella lastricata di mattoni gialli. In men che non si dica, si incamminò spedita verso la città smeralda, con le sue scarpine d'argento che tintinnavano allegramente sui duri mattoni gialli. Il sole brillava, gli uccelli cinguettavano, e Dorothy non si sentiva poi tanto male per essere una ragazzina portata via improvvisamente da casa e depositata in uno strano paese. Più camminava, più era sorpresa dalla bellezza della campagna intorno a lei. C'erano steccati ai margini della strada, pitturati di un bel blu, e al di là di essi, in abbondanza, campi di grano e di ortaggi. Evidentemente gli ignami erano bravi contadini, capaci di fare grandi raccolti. Ogni tanto incontrava una casa e gli abitanti uscivano per vederla e mentre passava le facevano un inchino profondo, perché tutti sapevano che lei aveva ucciso la strega cattiva e li aveva liberati dalla schiavitù. Le case degli ignami erano strane, rotonde con un tetto a cupola e tutte pitturate di blu, perché nella terra dell'est il colore preferito era il blu. Verso sera, quando Dorothy, stanca di camminare, stava pensando a dove passare la notte, giunse in una casa più grande delle altre. Davanti, sul prato, stavano ballando molte persone, uomini e donne. Cinque violinisti suonavano a tutto volume e tutti ridevano e cantavano, e accanto a loro c'era una tavola imbandita con frutti e noci dall'aria invitante, torte, crostate e molte altre cose buone. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Dorothy fu accolta con gentilezza e invitata a mangiare e dormire lì, perché questa era la casa di uno degli ignami più ricchi e i suoi amici erano lì per festeggiare la liberazione dalla schiavitù della strega cattiva. Dorothy mangiò molto e bene e fu servita dallo ignami ricco in persona, il cui nome era Bock. Dopo pranzo, seduta su un divano, guardò gli altri ballare. Quando Bock vide le sue scarpe d'argento, disse: «Devi essere una grande maga». «Perché?» chiese la ragazzina. «Perché porti delle scarpe d'argento e hai ucciso la perfida strega, e poi hai del bianco nell'abito, e solo le streghe e le maghe portano il bianco». «Il mio vestito è a quadretti bianchi e blu», disse Dorothy, lisciandone le pieghe. «Sei gentile a portarlo», disse Bock. «Il blu è il colore degli ignami e il bianco quello delle streghe. Così sappiamo che sei una strega amica». Dorothy non sapeva cosa rispondere, perché tutti sembravano credere che lei fosse una strega, ma sapeva benissimo di essere solo una normalissima ragazzina, arrivata per caso in uno strano paese, trasportata da un ciclone. Alvar Horvacher ha letto Il mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.